Tutti Convocati Magazine. Rivediamo il calcio d'angolo di Conti, il tiro è di Graziani, la deviazione è di Rossi, l'ultima deviazione, tripletta di Rossi al 29esimo, l'Italia per la terza volta in vantaggio e di nuovo la qualificazione passa dalla parte nostra. Era il 5 luglio del 1982, sono passati 31 anni, ancora 5 ore e torneremo ad affrontare il Brasile. Ovviamente non c'è nessun paragone, non bestemmiamo perché quella è una delle pagine più belle della storia del nostro calcio e quella di questa sera contro il Brasile sarà poco più di un amichevole di lusso, però noi abbiamo voluto convocare oggi a 5 ore da questo Italia-Brasile uno degli uomini che scrissero la storia del nostro calcio, quel 5 luglio del 1982. Saluto e ringrazio Fulvio Collovati. Ciao Fulvio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie della convocazione. Non bestemmiamo, già in settimana abbiamo parlato della notte della Zecca per paragonarla al 4-3 con il Giappone e già lì si è rischiata qualche querela. Italia-Brasile è poco più di un amichevole oggi. Ma insomma, non è questione di bestemmiare, è questione che sì, è una partita che ha fatto la storia del nostro calcio. Insomma, diciamo che non è l'unica, ce ne sono tante partite. Italia-Germania e Italia-Brasile sono la storia del nostro calcio a livello nazionale. Devo dire che abbiamo ottenuto, soprattutto contro il Brasile, anche alcune sconfitte. Ricordo il Messico 70 in finale, ricordo il 94 in finale per 6 rigori, però quella lì dell'82 è stata una vittoria, non era una finale ma è come se fosse stata, perché è una vittoria storica che poi ci diede lo slancio per arrivare in finale e vincere, ecco. Per cui è un ricordo, come posso dire, al di là del fatto che sono passati 31 anni, ancora vivo nella mente di tutti. E soprattutto straordinario per come è stato fatto, ecco, tutto. Sì, la verità è che quell'Italia-Brasile è la partita del 1982, così come ad esempio la semifinale con la Germania vinta ai tempi supplementari è forse la partita del, certo, 2006, più ancora della finale con la Francia. Assolutamente sì, e sono, come ti dicevo prima, sono partite, sai, poi se pensi a quel Brasile, per quello che dico, non è, tu giustamente hai detto, non è il caso di far paragoni, sai, ogni nazionale ha la sua epoca, la sua storia, i suoi giocatori. Quello era un Brasile che uscì sconfitto contro di noi nonostante avesse Zico, Cerezo, Falcao, Junior, Socrates, tutti giocatori di statura mondiale, però che poi alcuni di loro vennero a giocare in Italia e fecero la storia anche nel nostro campionato, per cui un Brasile unico, irripetibile. Diciamo, io non ho avuto modo di conoscere il Brasile di Pelé, qualcuno dice che è stato il più forte di tutti i tempi, non lo so, però quello posso dirlo, avendoci giocato contro, che era un Brasile storico, assolutamente. Questo Brasile che impressione ti dà, a partire da Neymar, cui molti pronosticano un futuro da Pelé, anche per la somiglianza in alcune movenze? Ad esempio ha fatto il gol al volo in questa Confederations, che un po' alla lontana, visto che stiamo bestemmiando, bestemmiamo fino in fondo, ricorda il gol di Pelé nella finale in Svezia nel 1958. Che idea ti stai facendo di Neymar? Ma mi sto facendo l'idea di un grande talento, questo è fuori discussione. Tutto da verificare, però, in Europa. Però bravissimo, è questo che voglio dire. Cioè, diciamo che in campo internazionale, allora, Pelé è stato probabilmente, dicono, forse più grande di Maradona, non lo so, io ho vissuto l'epoca di Maradona, posso dire quello che è stato Maradona. Pelé però non si è misurato col calcio europeo, che è un calcio difficile, tu lo sai. Vorrei vedere, prima di dare dei giudizi definitivi, Neymar a misurarsi in Champions col Barcellona, con le difese chiaramente non come quella del Messico dell'altra sera o anche del Giappone nella prima partita. Giappone, però ripeto, non è certamente un giocatore da mettere in discussione adesso, insomma, però giustamente è giusto valutarlo a compiti indubbiamente più, più complicati e più difficili. In molti stanno spingendo questa sfida tra Neymar e Balotelli, due talenti che potrebbero segnare il prossimo decennio del calcio europeo. Secondo me da questo punto di vista c'è tanto marketing, perché uno, e lo abbiamo detto, deve ancora dimostrare tutto, e l'altro probabilmente non è al livello dei veri numeri uno. Ma sai, allora, sono figli, ripeto, due giocatori che hanno diversi, molto diversi, uno molto più, uno tecnico ma anche molto fisico come Balotelli, l'altro indubbiamente molto più veloce, molto più rapido, però sono figli della nostra generazione, figli della non della nostra, della generazione attuale, quella di adesso, figli della comunicazione, figli ciò che furbi anche sotto certi aspetti, tutto ciò che fanno lo comunicano non con la voce ma lo comunicano attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso, per cui qualsiasi loro movimento è dettato da questi social, per cui una volta c'era molta più discrezione, diciamo la verità. Paolo Rossi ha fatto 3 gol e mezz'ora finita la partita in Italia-Brasile è uno spogliatoio, sappiamo solo noi dell'82 che cosa ha fatto. Adesso invece magari ti filmeresti, andresti sui social, festeggeresti con milioni, milioni, milioni, ma sono diventati degli imprenditori anche sotto questo aspetto. A te piace Balotelli che passa le notti su Twitter a rispondere ai tifosi? Beh, quella è vita privata che però Balotelli mette in piazza, ma è io avrei agito diversamente, però è una sua scelta che poi può rivelarsi anche una scelta vincente, dato che mi risulta che appena ha aperto Twitter ha avuto 300-400 follower. È quasi a un milione, Fulvio, allora sei rimasto indietro, è quasi a un milione di follower. Sono rimasto troppo indietro, hai ragione. Beh, ne ha quasi più Balotelli del Milan, ne ha più Balotelli di tante altre società italiane, anche di primissimo livello. Sono, da questo punto di vista, sono delle industrie ed è giusto anche valutarli per quello che muovono a livello di soldi, certo. A livello mediatico, a livello di seguito. In una battuta, poi abbiamo il traffico e poi chiudiamo il discorso, ti piace questa Italia di Prandelli? La stanno massacrando, secondo me anche a ragione, perché le prestazioni sono di un livello evidentemente non eccelso, però io penso che le difficoltà che stiamo incontrando in queste settimane in Brasile verranno utilissime tra un anno e quindi ben vengano. Allora, questa è un'esperienza che ci servirà, tu hai detto bene, ci servirà fra un anno. Se tu mi dici che mi piace questa Italia, questa spedizione alla Confederazione, ti dico di no, sono sincero. Ho l'impressione che tanti giocatori abbiano staccato la spina con la fine del campionato, per cui non è nella testa dei nostri calciatori, soprattutto questo tipo di competizione Federation, che evidentemente sentono poco, per cui non è un fatto fisico ma è un fatto mentale. Hanno staccato la spina e si vede che fanno fatica. Perdi 2-0 col Giappone e poi viene fuori l'orgoglio, reagisci e viene fuori la qualità la qualità che abbiamo, però abbiamo difficoltà, perché in due partite tra Messico e Giappone hai preso 4 gol, non è sì, sono difficoltà questo. Legate alle motivazioni, alla condizione fisica e a tanti discorsi. Bisogna vedere cosa si potrà cambiare poi da qui a un anno, quando ci ripresenteremo in Brasile per giocarci il mondiale. Ma nelle competizioni che contano, sai che alla fine siamo sempre presenti, perché poi alla fine siamo capaci di fare aggregazione, di fare gruppo, di pensare esclusivamente a questo. Adesso ho l'impressione che qualcuno pensi già alle vacanze, qualcuno pensa magari ai trasferimenti, eccetera, eccetera, per cui la testa è altrove e in campo si vede. E se è difficile affrontare un impegno come questo? Tutti convocati Magazine. Italia-Brasile resta una serata di grande fascino e di grande magia, anche se si tratta di Confederations Cup, anche se non conta nulla nemmeno all'interno del girone, se non il primo posto per cercare di evitare la Spagna nella semifinale. Da questo punto di vista, Fulvio, io trovo che un po' di turnover Prandelli avrebbe probabilmente potuto farlo contro il Giappone, perché poi se un test deve essere, penso sarebbe stato un test più interessante affrontare con tutta la squadra al completo, ad esempio le partite contro Brasile e Spagna, che a noi servono per misurarci proprio in vista di quello che ci attende tra un anno. Sì, è vero. forse qualche cambiamento andava fatto in più contro il Giappone, però sai, i giocatori sono questi. In realtà hai visto, è entrato Aquilani, non è che abbia brillato, è entrato Maggio al posto di Abate anche lui, Giovinco alla fine è entrato, ha fatto gol, insomma i giocatori sono questi, la nostra nazionale in questo momento propone questa. A me sinceramente mi vengono un po' i brividi se penso che fa dopo il mondiale 2014 probabilmente Pirlo staccherà definitivamente. Si spererà un'intera generazione, Buffon, Barzagli. Alla fine i nostri due o tre migliori se ne andranno, per cui ci sarà un ricambio generazionale molto molto lento e molto lungo. A me i brividi Fulvio vengono pensando che tra un anno questi giocatori arriveranno esattamente con la stessa fatica nelle gambe, con le stesse tossine nella testa, con un anno in più sulla carta d'identità, e nessuno si è premurato di ragionare su un avvicinamento a tappe un po' più un po' meno forzate a questo mondiale. Io non so che cosa potrà cambiare tra un anno, se non le motivazioni. Da questo punto di vista ci sarà qualcosa di diverso. Il nostro campionato quello che propone è questo. Tu hai visto l'Under 21 che si è comportato in modo egregio, ma quali giocatori dell'Under 21 sono in grado in questo momento di sostituire quelli attuali nella nostra nazionale A? Penso pochi. Tutti dicono credo andrà portato Verratti certamente in Brasile. Verratti sarà il sostituto di Pirlo, questo sì, però consentimi di dirlo che in questo momento tra Pirlo e Verratti insomma c'è una bella differenza. Però magari l'idea di poterlo schierare in una o due partite del girone potrebbe dare a Pirlo poi quella forza nelle gambe di arrivare alla fase decisiva senza quello ad esempio che è capitato in questa Confederation, dove probabilmente l'avventura di Pirlo è terminata in anticipo. Grazie a Fulvio Collovati. Grazie a te Giovanni, grazie a voi, buongiorno a tutti, ciao. Grazie a Fulvio Collovati. È stata questa anche la settimana dell'Under 21, della corsa per l'Europeo, che è finita davanti alla Spagna, una Spagna ingiocabile, 4-2 l'esito della finale. Bilancio però positivo per la nostra spedizione, al di là di come è terminata l'ultima partita. Ne abbiamo parlato con Arrigo Sacchi, che è il responsabile del settore tecnico giovanile della Federcalcio. È stata una chiacchierata interessante, la ripercorriamo. Buon pomeriggio ad Arrigo Sacchi. Buon pomeriggio a voi. Torniamo a casa con un pizzico di amaro in bocca per come è andata a finire nella partita di finale contro la Spagna, però io credo che legare il bilancio e i giudizi soltanto agli ultimi 90 minuti, mai come questo caso, sarebbe ingiusto oltre che sbagliato, condivide? Assolutamente, non torniamo con l'amaro in bocca. Un pizzico. Pensiamo che i margini d'errore fossero molti, mentre quelli di... i margini di miglioramento non ce ne fossero, quindi dobbiamo essere molto grati a questi ragazzi che hanno dato veramente tutto e hanno onorato l'Italia, essendo ancora vicecampioni d'Europa. Lei pensi che c'era un'altra squadra che aveva metà squadra come la nostra, che proveniva dalla Serie B, ed era l'Inghilterra, e ha fatto 0 punti. Lei pensi che questi ragazzi con l'Under 21 hanno eliminato l'Olanda, che praticamente era la nazionale che ha giocato 2 mesi fa contro la nostra nazionale maggiore, per dire che cosa hanno fatto questi ragazzi. Quindi complimenti a loro, complimenti a Mangia che è stato uno splendido condottiero, e complimenti per le prime 3 partite dove abbiamo giocato anche molto bene. Dopo eravamo un po' affaticati mentalmente, anche fisicamente, e anche perché abbiamo dovuto spendere molto non essendo abituati a queste contese, ma da parte nostra c'è grande soddisfazione, anche perché siamo riusciti in un mese e mezzo a portare 2 nostre squadre a una finale europea. Non ci riusciva dal 1986. Sì, perché poi il risultato dell'Under 21 va correttamente legato anche a quello dell'Under 17, che lo ricordava un mese e mezzo fa, è arrivata anch'essa all'atto finale dell'Europeo di categoria, ha perso ai rigori contro la Russia, però anche in questo caso è importante il segnale e anche il risultato, al di là poi di come è finita la competizione nell'atto conclusivo. Ha ricordato le parole di Davis Mangia, ha detto ci è mancata l'esperienza. Personalmente ritengo che l'avventura di questa Under 21 sia stata quasi un miracolo per il risultato che ha prodotto, anche se guardi, ovviamente è il frutto del lavoro. Miracoli lasciamo di fare al Signore. Noi abbiamo lavorato e bisogna ringraziare gli allenatori, perché è un lavoro che prosegue dall'Under 15 fino all'Under 21. quindi bisogna ringraziare gli allenatori di tutto il nostro settore giovanile, ringraziare i nostri allenatori federali, ringraziare Ferrara e ringraziare uno straordinario impegno da parte di questi ragazzi che gli ha consentito di fare qualche cosa che è andato oltre forse le loro possibilità, però una grande esperienza che chi saprà mettere a frutto ne trarrà un giovamento nella propria professione, ma anche non solo, ma anche nella propria vita. Oggi la Spagna quanto resta distante da noi, non soltanto sul campo, perché poi quello che si vede sul campo, soprattutto a livello giovanile e a questi livelli, è anche il prodotto di una filosofia, di una politica, di investimenti, di tutto un modo, di tutto un approccio. Quanto è lontana da noi? Ma guardi, con la 17 noi ci siamo qualificati e siamo andati in finale, mentre loro non c'erano. Abbiamo iniziato da 3 anni praticamente, questo è il 3° anno. È evidente che ora dobbiamo creare un percorso lungo. Cosa vuol dire? Una continuità di lavoro dall'under 15, che prima non c'era, e questo ci ha consentito già di essere più competitivi alla 17. Dall'under 15 fino alla prima squadra, dove il centro motore è il gioco e dove dobbiamo dare una continuità di lavoro in quel breve tempo che abbiamo a disposizione, perché noi crediamo dalla prima squadra in tutto il settore giovanile, crediamo in un calcio totale. Quindi il nostro centro è questo, è andare a prendere i giocatori più adatti per far questo. Purtroppo in un paese dove poche squadre attuano il calcio totale. E soprattutto poche squadre credono nei giovani, al di là delle parole. Sacchi, le chiedo un minuto, adesso ne parliamo, le chiedo un minuto di pazienza. Prego. Quando la centralità è il gioco, allora i giovani diventano degli interpreti stupendi. Se la centralità è il giocatore, il giovane non può avere la conoscenza e l'esperienza di uno più esperto. Ha detto Borini in queste settimane in Israele, anche con un pizzico di cattiveria, da noi i migliori sono costretti ad andarsene perché manca la fiducia nei giovani. Aveva ragione, ha ragione. Ma le ho spiegato il perché. Tanto il nostro è un ambiente molto isterico, frastornante, quindi non può... con i giovani devi pianificare a lungo termine. Seconda cosa, finché crediamo che sia il singolo che crei il gioco, è evidente che devi andare a prendere dei giocatori già maturi, giocatori che hanno grande conoscenza e grande esperienza. Se credi invece che il gioco sia frutto dell'idea e del lavoro, allora devi prendere i giovani, che sono quelli che lo realizzano con più facilità e con più impegno e anche con più intensità. Sì, noi restiamo ancora una mentalità, un campionato, un calcio che fa fatica ad adattarsi al tempo dei giovani. Ignoranza. Lei pensi, sarebbe come nella cinematografia, che vai a prendere dei grandi attori perché devono recitare a soggetto, senza una trama. Sarebbe come nelle commedie che non ci fosse un copione, o nella musica uno spartito. E pensiamo che lo spartito sia dato dal grande musicista, o che ognuno suoni quello che vuole. E quindi finché non avremo capito questo è quello che ha capito la Spagna e un po' tutto il mondo. Noi partiamo di lì, partiamo dal gioco, cerchiamo di dare un gioco e cerchiamo di prendere i ragazzi più funzionali per questo, perché sappiamo che il gioco moltiplica le loro qualità. Senza il gioco invece le loro qualità vengono disperse. Mi diceva Guardiola, noi abbiamo capito, abbiamo fatto il salto di qualità quando da una tecnica individuale siamo passati a una tecnica collettiva e abbiamo cominciato a giocare sia a livello difensivo che offensivo collettivamente. Certo, al di là delle questioni di bilancio, che poi ovviamente hanno il loro peso, io ad esempio trovo incredibile, difficile da capire quello che sta accadendo intorno del Sharawi, se davvero il Milan dovesse sacrificarlo per arrivare a Tevez, ad esempio. Prego. Io non so, del Sharawi non voglio mettere il becco, anche se è un giocatore che è stato con noi per 4-5 anni, lo ha fatto 17, 18, 19, 20, 21. E gli auguro di poter avere successo. La cosa che io chiedo ai settori giovanili è di dare una continuità di lavoro. La qualcosa purtroppo non si verifica, anche perché se non c'è uno stile di gioco comune è difficile dare una continuità di lavoro. Per chiudere, Sacchi, Mangia merita una partita importante. didatticamente ha una grande idea, un'idea importante, ha conoscenza, ha sensibilità e didatticamente molto bravo, quindi io credo che mi sembra impossibile che non trovi una panchina importante. Certamente, grazie ad Arrigo Sacchi. Grazie a voi, arrivederci. Tutti convocati Magazine. E ora usciamo dal calcio e apriamo la pagina dedicata al doping. Ve lo avevamo promesso nel corso della settimana parlando con Claudio Gatti, autore dello scoop sul Sole 24 Ore, sull'apertura dell'inchiesta della Procura di Bolzano sul caso di Alex Swatzer. Allora Claudio Gatti è di nuovo con noi. Ciao Claudio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Per ripercorrere quello che è emerso nell'inchiesta della Procura di Bolzano e cercare anche di capire che tipo di esame di coscienza sarà costretto a farsi lo sport italiano nelle prossime settimane, perché mi pare, provando a sintetizzare, quello che emerge disegna uno scenario di complicità, di omissioni, di coperture che ci riporta indietro nel tempo. Noi abbiamo letto ad esempio il libro di Franco Donati che raccontava una realtà che in tanti hanno rifiutato, ci sono state querele, ma che il caso di Alex Swatzer in qualche modo sembra ridipingere. Assolutamente sì, Donati, Sandro Donati. Sandro. Aveva parlato nel suo primo libro di il doping negli anni 70-80 e poi è andato avanti. Io non credo che il sistema sia cambiato, e quello che l'indagine di Bolzano sembra indicare è proprio questo, che seppure Swatzer sia stato presentato come l'atleta che ha ceduto alla tentazione del doping nonostante non ne avesse bisogno, a parte il fatto che l'inchiesta sembra indicare che il marciatore altoatesino abbia avuto questa tentazione per molto tempo, sin da prima delle Olimpiadi di Londra, ma in ogni caso indica chiaramente che c'era una consapevolezza della federazione di questa cosa, e che il fatto che lui si allenasse sempre da solo, lontano dagli altri, in realtà poteva essere un modo per far sì che un atleta con potenziale quale sembrava essere lui continuasse a gareggiare, ma che nessuno si sporcasse le mani. L'unico che secondo me potrebbe averlo fatto è il suo allenatore Didoni, il quale secondo me è a rischio ora di fare da capro espiatorio. Sì, perché era un quello po che forse, gli stava più vicino, un po' forse che hanno come lo stesso di corsa in Germania. Certo, un po' forse Claudio come lo stesso Alex Swatzer. Io voglio riproporre anche agli amici da casa un frammento della drammatica conferenza stampa dell'8 agosto del 2012. Sentiamo che cosa diceva Alex Swatzer, sentiamolo. Ho fatto questa decisione da solo, perché se fai questa decisione devi deciderti se lo dice qualcuno o no. Sono andato all'estero, di preciso in Turchia, da solo, e ho preso l'eritroponitina in farmacia. Sono voltato con me 1.500 euro che ho cambiato in Turchia, e ho dato al farmacista e ho detto cosa voleva. Ho fatto tutto da solo, diceva un anno fa Alex Swatzer. Subito era stato scritto che alcune parti della sua ricostruzione erano assolutamente incredibili. Viene da chiedersi se in qualche modo Swatzer, assumendosi completamente la colpa, rispondesse solo a se stesso, la sua coscienza, o anche a logiche che sono inconfessabili dell'ambiente. Beh, diciamo così, anche se non avesse avuto qualche input a proteggere il sistema, comunque... Sì, noi non stiamo dicendo questo, però il sospetto può venire. Beh, non c'è dubbio, ma io permettetemi di dire che non credo a nulla. quella di quello che ha detto Schwarzer, e la storia lo dimostra. Schwarzer ha cominciato ad avere a che fare con il mondo del doping quando era ancora allenato da Sandro da Milano e andava da Conconi. Quindi lui comincia con Conconi, dopodiché passa all'erede di Conconi, Ferrari, e quindi sta per un anno e mezzo con Ferrari, altro medico ultra chiacchierato, tant'è vero che lui non ci sta dichiaratamente con Ferrari, perché a me risulta che non solo abbia avuto gli incontri di cui poi si è saputo negli caselli autostradali a Verona Nord, quindi in posti improbabili, ma le comunicazioni erano attraverso sistemi nascosti, email segrete o comunque non dichiarate. Quindi era perfettamente consapevole che Ferrari era un medico a rischio. Quindi, dopodiché, Ferrari viene messo in difficoltà dalle inchieste di Padova, lui si sgancia e praticamente si mette in proprio. E questo sembra indicare, perché lui poi va in Turchia, è lui il primo stesso a dirlo. Sì, c'è questa sua ricostruzione del viaggio. In realtà la procura di Bolzano ricostruisce in maniera differente questo viaggio in Turchia, e questo credo sia uno dei punti più controversi anche e più spinosi del coinvolgimento della federazione o di chi sapeva e ha coperto o quantomeno non ha denunciato. Sì, diciamo, da quello che so io, la procura ha trovato le conferme che lui è stato effettivamente in Turchia qualche giorno a settembre del 2011. Quello che però ha appurato è, uno, che si era preparato una lista della spesa di sostanze dopanti che non includevano solo EPO ma anche testosterone, e che erano comunque almeno 5 e quantitativi non chiari, ma che in quel periodo aveva avuto contatti con il suo stesso allenatore, 7 sms e una telefonata mentre era in Turchia. Ora ovviamente non si sanno i contenuti di quelle sms o di quella telefonata, e quindi è possibile che avessero parlato di non lo so, progetti di gare da fare o altre cose, però senza che necessariamente Didoni fosse a conoscenza del viaggio in Turchia. Beh, sì, non è detto che sapesse che Schwarzer era in Turchia, e soprattutto che sapesse perché era in Turchia. Questo perché è giusto, insomma, per la presunzione di innocenza. Poi adesso l'inchiesta andrà avanti e cercherà di chiarire. Nei giorni successivi alla pubblicazione di queste notizie è successo qualcosa? Ci sono gli indagati, ci sono i medici che si sono autosospesi della FIDAL, mi pare di capire, anche una presa di distanza del CONI dalla FIDAL, che da un certo punto di vista, però vorrei conoscere il tuo parere, apre anche uno scenario un po' da scarica barile all'interno dello sport italiano, perché questa evidentemente è una vicenda che allunga un'ombra, io credo non soltanto sulla figura di Alex Schwarzer, ma rischia di allungare un'ombra un po' su tutto l'ultimo lustro dello sport italiano d'eccellenza. Assolutamente sì, e mi hai tolto la parola di bocca quando mi parli di scarica barile. Io stesso ho intervistato Fischetto la sera prima del mio articolo, e lui la prima cosa che ha detto: ah, ma io non avevo la responsabilità di ordinare il test antidoping, non ero io a chiederlo, lì lo doveva fare il CONI. Quindi Fischetto, che tra l'altro per difendersi dice: ah, ma qui insomma si sapeva che Alex Schwarzer fosse un atleta a rischio e facesse cose insolite, si allenasse in un modo curioso, un po' anomalo. Quindi voglio dire, sembrava che ci fosse una consapevolezza diffusa, e che poi quando si viene al dunque, perché Fischetto è stato colto con le, insomma, è chiaro dall'indagine che Fischetto aveva dati, valori ematici di Schwarzer assolutamente sballati, tant'è vero che lui stesso ha definita manipolazione del sangue senza ombra di dubbio. A quel punto deve giustificarsi su perché non ha fatto nulla e scarica la responsabilità sul CONI. Per chiudere, Claudio Gatti, il titolo del tuo articolo su Sole 24 Ore è: il caso Schwarzer diventa internazionale, perché poi c'è anche l'aspetto della Federazione Internazionale di Atletica. Fino a dove ritieni si possa arrivare a quel livello di responsabilità? Ma se secondo me la responsabilità della prestazione internazionale è altrettanto forte, anche se c'è meno c'era ancora meno interesse a proteggere un atleta di punta quale spazio per l'Italia. La FIDE aveva un enorme interesse perché si presentava a Londra praticamente senza grandi candidati a medaglie. Sì, ricordiamo che Schwarzer era la punta di diamante, io credo, dell'intera spedizione olimpica italiana, al di là e con tutto il rispetto per gli schermidori, per le fiorettiste, però insomma era l'uomo di copertina per Londra 2012, quindi gli interessi erano fortissimi. Assolutamente, e è stato presentato come tale dallo stesso Pagnozzi, segretario generale del CONI, da Rese, che era all'epoca presidente della FIDAL. Però la federazione internazionale assolutamente ha una sua responsabilità, perché neppure la IAAF ha fatto nulla per cogliere l'atleta con le mani nel sacco, nel senso che c'era la consapevolezza che lui si dopasse, però bisognava, come si sa, trovarlo positivo, e per farlo bisognava muoversi in un modo intelligente, che è quello che ha fatto la WADA, cioè l'agenzia antidoping mondiale, e non ha fatto né il CONI né la IAF. Ma io penso che il problema sia molto più diffuso, perché secondo me le federazioni internazionali, come non è solo quello dell'atletica, quella del tennis secondo me è altrettanto responsabile, perché i test out of competition, quelli a sorpresa, quasi non se ne fanno. Sai cosa ti dico, Claudio Gatti? Mi ricorda molto anche la differenza di atteggiamento tra l'USADA, la WADA e la federazione ciclistica sul caso Armstrong, ma qui poi apriremo un capitolo difficile da condensare nei 10 secondi che ci separano dal saluto e dal ringraziamento, ma comunque torneremo a parlarne, perché evidentemente si tratta di un'inchiesta che riserverà novità e sorprese, io credo, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie a Claudio Gatti. Grazie a voi. Grazie a Claudio Gatti, noi ci fermiamo, c'è il traffico e poi chiudiamo con la pallacanestro. Tutti convocati Magazine. Chiusura obbligata con la pallacanestro, perché è stata la settimana dei verdetti. In Italia il 7° scudetto consecutivo per la Montepaschi Siena, l'8° negli ultimi 10 anni, un meraviglioso canto del cigno, perché Luca Banchi se ne va, perché questa squadra sarà ulteriormente ridimensionata l'anno prossimo, perché la crisi della città di Siena non può non lasciare strascico anche nello sport, lo aveva già fatto del resto quest'anno, e proprio per questo scudetto è certamente più bello dei 6 che l'hanno preceduta. E poi è stata la settimana del titolo NBA di Miami, il 2° consecutivo, e allora ne abbiamo parlato con Flavio Tranquillo. Prende il tiro da 3, lo mette! Colpo da giocatore di biliardo al tabellone, più 2 match, la partita si accende, la serie decolla, il palleggio per Michael Jordan è a spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Buon pomeriggio Flavio, allora i Miami campioni per il 2° anno consecutivo in quella che dobbiamo ringraziare, perché è stata credo una delle più belle serie finali, io non so di quanto, qual è il tuo parere? Una delle più belle che abbiamo visto noi, qualcuno prima di gara 7 diceva era dai tempi del 97-98 Utah-Chicago, ci sta, ci sono state tante emozioni, questa è stata più che altro una di quelle più peculiari, particolari, con così tanti colpi di scena, rivolgimenti, sorprese, bella, affascinante. Sì, anche gara 7 è stata probabilmente più equilibrata di quanto si potesse immaginare dopo l'epilogo di gara 6, quando San Antonio era stata davvero a un passo dall'anello, in molti ritenevano che ci sarebbe stato un contraccolpo psicologico pesantissimo, invece se la sono giocati fino a 30 secondi dalla fine, fino al canestro spacca partita di LeBron, poi ne parleremo. Senz'altro, io credo che la maniera con cui hanno perso gara 6, paradossalmente in una serie così particolare, come dicevamo, abbia fatto quasi il gioco di San Antonio, nel senso che gli ha dato più forza che non le varie energie, perché è chiaro che l'occasione persa è stata grande, la delusione cocente, ma alla fine gli ha dato forza. Alla fine ancora però ha vinto quelli che dovevano vincere, perché questo sport sembra così, in cui non capisci mai quello che succede, ti sorprende, ma poi ha dentro una ferrea legge da cui non puoi mai scappare. Sì, e poi se hai LeBron James, ad esempio, quindi hai il più forte in questo momento, è molto più facile che ti regali un successo piuttosto che fartelo perdere. Penso che la prestazione di questa gara 7 sia un po' la sintesi di quello che è lui in questo momento, al di là dei numeri, 37 punti, rimbalzi, il canestro decisivo 28 secondi dalla fine, esce ingigantito, anche se lui ha detto forse non sarò il più grande di tutti i tempi alla fine della mia carriera. Ma se sarà o non sarà il più grande di tutti i tempi, intanto bisogna far arrivare elementarmente la fine della carriera, e passare la carriera a chiedersi se lo sarà o non lo sarà mi sembra veramente del tempo perso. È un giocatore con dei pregi molto visibili, dei difetti che sono ingigantiti secondo me e distorti da quelli che li cercano a tutti i costi, e non sono abbastanza valorizzati da quelli che invece non si pongono con animo sgombro davanti al fenomeno LeBron James. Detto questo, nella settima partita ha processato tutti i dati delle precedenti sei e ha giocato in una maniera enormemente più solida rispetto alle altre sei, e siccome contro i Pacers aveva fatto la stessa cosa, questa è una dote non da poco. Sì, certamente non è un caso. Wade e LeBron 60 punti in due, Miami ha mandato solo 5 uomini al referto. Abbiamo parlato tanto, ne hai parlato anche con Carlo alla vigilia di questa finale, era una sfida tra due filosofie. Diciamo che in gara 7 Miami ha usato tutto quello che era il suo arsenale, tutto ciò che aveva, e ha vinto esattamente rispettando quelle che sono le sue caratteristiche. Sì, in attacco, ma ancora di più in difesa, nel senso che nelle ultime due partite della serie ha completamente cambiato l'approccio difensivo, molto più locked in, si dice in inglese, concentrati sul pezzo, e hanno sfruttato questa velocità orizzontale di squadra che in difesa è un'arma incredibile. Coprono orizzontalmente degli spazi che sono sostanzialmente quelli che gli Spurs hanno attaccato con così tanto successo per tutta la stagione e all'inizio della serie. Quegli spazi ci sono stati fino a gara 6, poi da un certo punto in poi non ci sono stati più. Per chiudere, Flavio, quanto resterà nella testa di Popovic la mancata chiamata su un fallo tattico sul più 3, praticamente a partita vinta in gara 6? Lui ha detto: questione di mentalità, queste cose le fate voi europei, però alla fine ha perso il titolo. Secondo me c'è un misunderstanding enorme. Non ha detto questione di mentalità, queste cose le fate voi europei in senso etico, cioè queste sono cose che non si fanno. Ha detto: questa è una domanda europea, in quanto fatta da un europeo, un italiano, un valoroso collega della Gazzetta dello Sport, perché in Europa c'è una forte corrente di pensiero che dice bisogna sempre fare fallo. Se questa corrente di pensiero motiva la propria opinione, secondo me è molto molto rispettabile. Se invece è un pregiudizio, cioè bisogna sempre fare fallo perché sì, allora è come il pregiudizio di Popovic, che ha avuto sicuramente un'uscita infelice. Però per venire alla tua domanda, io penso che Popovic abbia questa filosofia, che dopo la partita va a mangiare in un grande ristorante e bere un bicchiere di grande vino, ed è la maniera con cui è arrivato a questa età, a 64 anni, riuscendo ad assorbire gli alti e bassi di una professione incredibile. E quindi sicuramente non gli resterà nella testa, tra l'altro abbiamo visto meravigliose quelle immagini dei suoi abbracci dopo la partita, in fondo si era appena giocato e perso un titolo NBA. Grazie a Flavio Tranquillo. A voi. Ed è davvero tutto, un ringraziamento a Franco Piantanide, autore di questo programma, a Robby Scaltritti in regia, l'appuntamento in diretta con tutti i convocati lunedì a partire dalle 14.05. Un saluto da Giovanni Capuano.